GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Si aprono stasera le semifinali di Champions League con l'Italia solo tristissima spettatrice. C'è il derby britannico tra Liverpool e Chelsea che per la terza volta nelle ultime quattro stagioni si trovano di fronte. Primi due precedenti a favore dei Reds che recuperano stasera capitan Steven Gerrard. Domani c'è Barcellona-Manchester United. Chi la Champions League la farà, ma solo nella prossima stagione, è la Juventus. Giovanni Cobolli Gigli è un presidente soddisfatto che manda messaggi d'amore a Del Piero, tornato superstar. Sentiamo Cobolli Gigli al microfono del nostro Dario Ricci. Noi non perdiamo mai occasione di dire quanto sia legato ai giocatori, oltre che ai tecnici, i risultati che stiamo portando a casa. Mi fa molto piacere vedere la nostra squadra giocare nel suo complesso con grande determinazione, e certamente Del Piero è uno degli esempi, ma ce ne sono altri, naturalmente Buffon, le azioni che Del Piero sviluppa con Trezeguet, Camoranesi, Nedved, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, grande felicità per vedere quello che sta facendo Del Piero. Se la immagina un'Italia-Francia senza Del Piero e Trezeguet agli europei? Ma io me la immagino con Del Piero, preferirei che Trezeguet avesse un po' più tempo per dedicarsi alla Juventus, questo in quanto sono un tifoso della nazionale italiana, con ciò voglio dire che Trezeguet è un grandissimo centravanti. Intanto Roberto Donadoni conferma che nonostante la mancata convocazione di Del Piero per le ultime amichevoli della nazionale, la porta azzurra per il capitano della Juventus resta aperta. Non ho mai detto che Del Piero ha perso la maglia azzurra, ha detto il CT. Non credo che nessuno possa accusarmi di questo, anche in virtù del fatto che da qui agli europei ci separa ancora del tempo, dice Donadoni. Difficile al momento capire invece se quella del Milan su Ronaldinho sia una retromarcia in piena regola. Si sa che Ernesto Bronzetti, emissario rossonero, tornerà a parlare con il Barcellona mercoledì sera dopo la partita di Champions League. Offerta rossonera 35 milioni di euro per Ronaldinho e Zambrotta. Intanto Galliani ribadisce. Le operazioni di mercato le facciamo alle condizioni che riteniamo che si possano fare. Se si faranno si fanno, se no si cambia obiettivo. Mai detto che eravamo vicini al Barcellona. E dall'altra sponda di Milano ecco Massimo Moratti. No, è caro anche per noi, non esiste un caro per uno e non per l'altro, è caro per tutti, grazie. Torino in piena zona retrocessione dopo la sconfitta con l'Inter e con la prospettiva di andare all'Olimpico con la Roma domenica. Ambiente ora elettrico, quello granata, specie dopo l'esonero di Novellino sostituito da Gianni De Biasi. Gianluca Comotto, ora alle prese con la riabilitazione dopo un grave infortunio, è comunque un giocatore simbolo di questo Torino e parla così. In quel momento in cui ci è successo quel casino con Novellino mi sarei arrabbiato molto, perché avrei difeso la morte Novellino, che è un grande uomo di calcio e meritava un altro rispetto che non hanno avuto. Il Torino raggiungerà la salvezza e spero che però non si prendano meriti magari persone che non meritano di prendersi dei meriti, perché il grande lavoro è stato fatto da Novellino e la salvezza arriverà per merito suo e per merito dei giocatori. Lasciamo ora il calcio per il nuoto. L'Ormana 2 è stata battuta nei 400 stile libero donne, come non le accadeva in una competizione ufficiale dagli europei del 2004 a Madrid. È avvenuta ai campionati di Francia in corsa a Dunkerque, che qualificano alle Olimpiadi. La campionessa olimpica del mondo, nonché campionessa di Francia uscente, si è fatta scappare anche qualche singhiozzo sul podio. La Mana 2 è stata battuta dalla romena Camelia Potez, i campionati sono open, lo ricordiamo, e dalla francese Coralie Balmy. Terzo tempo che vale per la Manadou comunque i giochi di Pechino. Infine termina al primo turno l'avventura di Potito Starace al torneo Master Series di Monte Carlo. Il napoletano ha perso in 3 set con l'ecuadoriano Nicolas Lapnetti. Passa invece Filippo Volandre, che ha sconfitto il francese Nicolas Mahut con il punteggio di 6-2-6-3. Nel prossimo turno Volandre con lo scozzese Andy Murray. È tutto per GR Sport di stamattina, di nuovo buona giornata.